Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, l'ultima puntata della settimana. Ritorniamo sul terreno che c'è molto familiare, quello del risparmio. La crisi c'è, le difficoltà ci sono, tutto questo non si può negare, eppure gli italiani continuano a cercare di mettere fieno in cascina, ovvero di risparmiare. Lo ha certificato il rapporto sul risparmio curato da BNL BNP Paribas, dal centro di ricerca Luigi Einaudi, presentato ieri a Roma e il cui resoconto lo trovate questa mattina su tutti i giornali. La percentuale di italiani che proprio non riesce a mettere soldi da parte è diminuita dal 69%, picco massimo registrato lo scorso anno, al 53% di quest'anno, e questa sembra una buona notizia. Il tasso è comunque ancora indubbiamente alto. Pensate che nel 1984 non risparmiava solo il 6,2% delle famiglie. Ma questo è comunque un dato che evidenzia come l'Italia abbia tenuto anche grazie alla forza del suo risparmio e all'equilibrio dei suoi risparmiatori. Il rapporto 2009 è dedicato al risparmiatore consapevole perché larga parte della ricerca evidenzia che per gli italiani riuscire ad investire una parte del proprio reddito è comunque indispensabile o in ogni caso molto utile, e oltretutto sono tanti i risparmiatori frustrati che vorrebbero risparmiare ma proprio non ce la fanno perché le spese di tutti i giorni si mangiano tutti i soldi disponibili, i redditi non arrivano più da nessuna parte, c'è il famoso problema della quarta settimana, forse problema che è diventato la terza settimana del mese. Poi in questo rapporto c'è un altro tema molto rilevante, anche questo molto frequente come ambito di discussione a Salva Danaio, quindi nei nostri contenitori economici: l'indebitamento. Una parte significativa delle famiglie italiane con debiti, dice il rapporto, ha sperimentato negli ultimi 12 mesi una situazione di tensione finanziaria. Allora, questo è il tema di questa mattina. Commenteremo in lungo e largo il rapporto BNL Einaudi, appunto, sullo stato di salute del risparmio in Italia, uno dei rapporti più accreditati nel nostro paese. Intanto con il suo curatore e responsabile, professor Andrea Beltratti, prorettore e ordinario di economia politica all'Università Bocconi di Milano. Professor Beltratti, bentornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. E buongiorno, grazie di essere con noi. Poi più tardi ci collegheremo con Salvatore Carruba, presidente del Centro Einaudi, già direttore del Sole 24 Ore, oggi editorialista del Sole e cura peraltro, anche per chi lo conosce dai microfoni di Radio 24, la rubrica Un libro tira l'altro. Raccontateci qual è la vostra situazione. Ovviamente questo è un rapporto che affronta anche le modalità con cui gli italiani in questo momento si approcciano al mondo del risparmio, a prescindere dal fatto che forse il reddito non consente di accantonare molte risorse, ma in ogni caso è un tema che vi sta molto a cuore. Allora raccontateci un po' anche quali sono le vostre prospettive per il prossimo anno. Ci rendiamo conto che molti hanno perso il posto di lavoro, molti sono in cassa integrazione, molti sono in mobilità, per cui chiaramente questo è un tema assolutamente delicato per tutte le famiglie che ci ascoltano, e proprio per questo vorremmo sentirvi su questo argomento e commentare un po' il vostro orientamento. Raccontateci ovviamente quello che pensate all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666. Diamo un'occhiata alla borsa questa mattina. La giornata ieri è stata piuttosto negativa in Europa perché sono pesati tanti fattori, ancora il dollaro che scende, i sussidi alla disoccupazione in America sono stati peggiori delle attese, la crisi del debito in Grecia. Ieri tutto questo ha portato ancora una volta l'euro a scendere un po' sul dollaro, e quindi anzi parliamo un po' di un dollaro che è sulla via del recupero dell'euro dopo i picchi minimi raggiunti nelle scorse settimane. Stamattina siamo a 1,4390. Ieri la borsa ha avuto una giornata piuttosto negativa, oltre un punto di ribasso su tutti listini europei, Wall Street compresa. Stamattina si tenta il recupero, ma la giornata sembra piuttosto altalenante. C'è un balzo di un punto a Londra, mentre Parigi segna un più 0,5, Francoforte più 0,6, mentre è molto più modesto il rialzo di Piazza Affari, FTSE MIB più 0,19%, ma qua ci sono delle ragioni tecniche. Scadono oggi i futures su indici, opzioni e azioni, la cosiddetta seduta delle tre streghe. È un evento che quindi caratterizza dal punto di vista tecnico le contrattazioni. Milano oggi premia pandemia. In pregilo più 3,79 dopo le parole del numero uno dell'ANAS Ciucci, che ha annunciato che tra qualche giorno è previsto l'avvio dei cantieri in Calabria per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Prysmian più 2,84, Geox più 1,66, STM più 1,42, Snam, Saipem e Eni in rialzo di un punto, con il petrolio sui $73 al barile. In discesa di due punti UbiBanca, anche Telecom, meno 1,8 per Luxottica, Popolare di Milano meno 1,75, ribasso di un punto e mezzo per il Banco Popolare e Mediaset, che era andata molto bene ieri. Oggi il titolo scende appunto, quindi probabili prese di beneficio. Sarebbe vicino l'accordo per l'acquisto della spagnola 4 e poi c'è anche la decisione del governo di tagliare il tetto di affollamento orario delle pubblicità per la Pay TV per recepire le nuove direttive europee. Il limite dovrebbe scendere dall'attuale 18% a 12%, quindi penalizzata Sky e evidentemente premiata probabilmente su questo versante Mediaset. Su questo ieri il titolo era cresciuto, oggi scende. Però noi lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, torniamo sulle tematiche del risparmio degli italiani, sentiamo quanto ha decretato il rapporto sul risparmio BNL Einaudi divulgato ieri a Roma. Un risparmiatore consapevole della crisi, abbastanza soddisfatto del reddito corrente, ma decisamente meno ottimista sulla propria pensione e sulle prospettive a 5 anni. È questa in sostanza la fotografia degli italiani scattata dal rapporto 2009 sul risparmio e sui risparmiatori in Italia, realizzato da BNL in collaborazione con il Centro Einaudi. E se da un lato i risparmiatori sono frustrati perché le spese di tutti i giorni si mangiano i soldi disponibili, di fronte alle difficoltà economiche hanno mantenuto i nervi saldi, tentando di continuare a mettere da parte i propri soldi. La percentuale di chi proprio non riesce a risparmiare è infatti diminuita dal 69%, picco massimo registrato nel 2008, al 53% del 2009. Un tasso ancora alto, certo, ma che sottolinea comunque la propensione al risparmio propria del nostro paese. Una tendenza, quest'ultima, certificata nei giorni scorsi anche da Banca Italia. Secondo Via Nazionale, infatti, nonostante il calo della ricchezza netta complessiva delle famiglie negli ultimi due anni, è stata proprio la capacità di risparmio delle famiglie, unita al tradizionale investimento nel mattone, ad aver attenuato l'impatto della crisi. 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione per ascoltare i vostri contributi sul tema di questa mattina, la vostra propensione al risparmio. Qual è adesso? È ovviamente una propensione legata alla vostra condizione reddituale e lavorativa, e però c'è grande tenacia da parte della famiglia italiana che comunque anche nella difficoltà tenta di accantonare qualcosa per far fronte ad emergenze future, per accantonare per la pensione. Professor Beltratti, ancora buongiorno. Quello della presentazione del rapporto BNL Einaudi è un appuntamento ormai istituzionale, uno sguardo molto lucido sul comportamento degli italiani in tema di risparmio, creazione di riserve per il futuro. Ci spiega dal punto di vista scientifico, per raccontarlo anche ai nostri ascoltatori, come viene condotto questo studio? Perché sa, tutti i giorni leggiamo di analisi sulla propensione al risparmio degli italiani, sulle nostre lacune in materia finanziaria, e molti si interrogano su quanto siano poi anche utili, no, questi studi. Il vostro come viene fatto? Ma il nostro viene eseguito mediante interviste telefoniche sulla base di un questionario che è predisposto qualche mese prima dell'inizio, diciamo riflettendo un po' sulle domande che possono essere di interesse, e quindi un questionario che viene mantenuto in parte stabile nel tempo per consentire una confrontabilità dei risultati, e in altra parte modificato per tener conto degli elementi che dal punto di vista congiunturale sono più interessanti. Tipicamente le interviste avvenivano nel mese di giugno-luglio, quindi all'inizio dell'estate. Quest'anno abbiamo deciso di posticipare le interviste, che sono effettuate dalla Doxa, al mese di settembre, per avere una figura, diciamo, delle informazioni più vicine possibile a quella della presentazione del rapporto, specialmente in un contesto di elevata volatilità e instabilità economica come questo. Infatti le informazioni invecchiano molto rapidamente, quindi ci tenevamo ad avere delle informazioni che fossero abbastanza recenti. Mm-hmm. Queste appunto risalgono a settembre, quindi sono sicuramente recenti. Il campione è rappresentativo del punto dell'economia italiana. Professor Beltratti, leggevo che allora questo rapporto, che viene redatto dal 1984, il primo rapporto sul risparmio sui risparmiatori italiani risale al febbraio del 1984, e per quello che riguarda appunto il questionario che lei ci raccontava, Doxa sottopone ad un panel evidentemente di soggetti individuati, era un questionario che era piuttosto articolato fino al 2007, nel 2008 poi lo avete rivisitato riducendolo e poi per quello che riguarda invece il 2009 è ritornato ad una forma estesa, segno che ovviamente la crisi vi ha imposto anche un po' di modificare, no, la vostra modalità scientifica di conduzione di questa rilevazione. Perché? No, soprattutto più che appunto rivisitare la modalità scientifica di conduzione, si è trattato del fatto che nello scorso anno la situazione che appunto era arrivata tra l'estate e settembre con il fallimento di Lehman Brothers e le ampie conseguenze sul sistema bancario, sul sistema economico in generale, ci aveva suggerito che in quel momento i dati avrebbero potuto essere particolarmente, diciamo, rumorosi, quindi poco rivelatori di tendenze, di situazioni e quindi poco estrapolabili. Quindi lo scorso anno avevamo deciso di adottare una modalità molto stringata, con un questionario molto piccolo, contenente mi pare una quindicina, una ventina di domande. Quest'anno siamo tornati alla formula più tradizionale, che contiene qualche domanda in più, perché si ritiene che appunto quest'anno la situazione sia non completamente superata, anche date le difficoltà che lei giustamente ha citato per molti italiani, ma comunque almeno più stabile, al punto tale da poter avere dei dati più affidabili. Mm-hmm. Ci sono già degli ascoltatori che ci hanno scritto, alcuni pronti ad intervenire. Io, prima di sentirli, perché hanno anche delle riflessioni piuttosto interessanti, professor Beltratti, noi abbiamo dato, volevo farle un'altra domanda, poi andiamo in pausa, abbiamo già dato alcuni dei dati salienti del rapporto di quest'anno, cioè che rispetto al 2008 è ritornata ad aumentare la percentuale degli italiani che riesce a mettere qualche soldino da parte. È anche leggermente aumentata la quota di coloro che si ritengono soddisfatti del reddito percepito e sono aumentate però le situazioni di tensione finanziaria. Questa proprio in grande sintesi, questo è quello che emerge appunto dal rapporto. Se lei, che lo conosce a menadito, visto che lo ha scritto, dovesse indicare la peggior notizia del rapporto e la migliore, quale sintesi ci farebbe? Ma diciamo, allora io l'ho scritto congiuntamente con il professor, certo, Mario Valletta, Valletta. Bancarie, quindi appunto ci tengo a ricordarlo, ma credo la peggior notizia è sicuramente questo peggioramento significativo delle aspettative e delle percezioni sul reddito all'età della pensione. È molto negativo appunto trovarsi in un sistema economico in cui la gente abbia poche prospettive economiche, abbia poche speranze di poter migliorare la situazione, e quindi credo che un sistema economico in cui le persone hanno queste aspettative così contenute difficilmente possa fare fatica a crescere, quindi vedo il rischio di un circolo vizioso in cui bassa crescita porta le persone ad avere delle aspettative molto basse per il futuro, e questo sicuramente non aiuta la crescita. La notizia migliore forse, devo dire, riguarda in questo caso la maggior consapevolezza che gli italiani stanno avendo nell'approccio ad esempio all'investimento finanziario, al mercato azionario in particolare, seguendo la serie storica in questi 10 anni, 15 anni. Intravediamo che le aspettative sul rendimento atteso del mercato azionario, ad esempio, sono più contenute, quindi soltanto 7, 8, 10 anni fa gli italiani avevano delle aspettative molto elevate, al di fuori, credo, di qualsiasi ragionevolezza, adesso cominciano ad essere molto più vicini ai dati storici. Inoltre noi vediamo adesso che le persone vanno sul mercato azionario con una maggior consapevolezza dei rischi, aumenta in particolare molto la percentuale di chi ritiene che sia molto difficile o impossibile stabilire se un mercato azionario sia valutato in maniera corretta oppure no. Quindi questo è un comportamento sicuramente precauzionale, però estremamente benvenuto, perché evidentemente può suggerire alle persone di comportarsi in maniera precauzionale rispetto a questi investimenti. Anche se poi il rapporto rileva anche l'altro grande problema del nostro paese, del quale discutiamo ormai da anni senza grandissimi passi avanti: la forte carenza nell'informazione finanziaria, una carenza anche nella programmazione del risparmio. Allora di tutto questo parleremo nella seconda parte del nostro programma. Ci sono Mauro da Firenze e Marco da Brescia pronti ad intervenire. Tante belle considerazioni. Un ascoltatore ci scrive: io ho fatto l'esatto contrario del risparmio, mi sono trovato un secondo lavoro, l'unica alternativa mutuo, moglie e 3 figli, l'unica alternativa al risparmio, con una famiglia così numerosa naturalmente un mutuo da rispettare ogni mese. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Questa mattina affrontiamo tutto ciò che emerge dal rapporto BNL Einaudi sul risparmio e sui risparmiatori italiani, che è stato divulgato ieri a Roma. Abbiamo il curatore del rapporto questa mattina con noi, il professor Andrea Beltratti, prorettore ordinario di economia politica all'Università Bocconi di Milano, con il quale abbiamo ampiamente commentato la natura di questo rapporto, come viene condotto dal punto di vista scientifico. specifico e quali sono le notizie più rilevanti che emergono. Ci ha raggiunto adesso il collega Salvatore Carruba, presidente del Centro Einaudi, già direttore del Sole, oggi editorialista del Quotidiano, appunto, e ho ricordato, Salvatore, che curi anche per Radio 24 la rubrica Un libro tira l'altro, così almeno abbiamo fatto tutto il curriculum. Benvenuto anche a te. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ho così affrontato col professor Beltratti, come dicevo, come dire, la miglior notizia, la peggior notizia di questo rapporto, che però è talmente articolato che è anche un peccato non riuscire ad analizzarlo tutto, ed eravamo rimasti alle preoccupazioni per le aspettative future, anche se dal rapporto emerge che è aumentata rispetto al picco negativo dello scorso anno la percentuale di chi giudica il suo reddito sufficiente, più che sufficiente. C'è però una grande preoccupazione per il futuro, perché, come sapete, negli ultimi 2 anni è anche stato crescente il numero, basti vedere cosa ha certificato ieri l'Istat, dei disoccupati. Allora, su questo vorrei sentire alcuni ascoltatori, perché adesso non parleremo probabilmente, dalle anticipazioni che vedo, esattamente, come dire, di disoccupazione, di quanto preoccupazione genera anche per la possibilità di accantonare una previdenza integrativa, una pensione integrativa per il futuro. E però c'è un altro genere di difficoltà che, secondo per esempio Marco da Brescia, non viene posta sufficientemente all'attenzione pubblica. Marco, benvenuto a Salva Danaio. Sì, buongiorno a voi e a tutti, tutti i radioascoltatori. Niente, io volevo lamentare proprio questo, cioè che ci sono centinaia di migliaia, se non milioni, di liberi professionisti, lavoratori autonomi, quelli che sempre si definiscono le partite IVA, che lamentano sostanzialmente una totale assenza del governo. Lamentiamo una totale assenza del governo perché per noi non risulta essere stato fatto nulla di nulla. Lamentiamo una latitanza, diciamo, non tutti i mezzi di informazione si disinteressano dei nostri problemi, il Sole 24 Ore, la vostra radio sicuramente se ne occupano qualche volta, però ecco, in linea di massima c'è abbastanza silenzio su questa cosa. Anche noi, anche le nostre famiglie, anche le nostre milioni di famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine. Lei è uno di questi, Marco? Sì, io sono uno di questi, sì. Io non voglio andare a prendere o a avere un welfare, perché io ho fatto una scelta di vita, di libera professione, quindi non voglio il welfare, non voglio che mi si faccia l'elemosina, però io non ho mai chiesto niente a nessuno e vorrei non essere considerato un cittadino di serie C. Questa situazione, Marco, di difficoltà attuale la porta ovviamente anche a rivedere complessivamente tutte le strategie di risparmio che probabilmente la sua famiglia magari aveva adottato negli ultimi anni. Lei oggi questo aspetto della sua vita come lo vede, per esempio? Riesce a pianificare una minima quota da risparmiare per il prossimo anno? In questo momento è completamente bloccato anche in una scelta di questo tipo? No, io credo assolutamente di non poter pianificare una linea di risparmio, semplicemente perché al momento non riesco a risparmiare. L'anno prossimo, se riuscissi a cambiare il mutuo attuale con un altro che mi consente di avere una rata mensile che abbia, non so, un 100 euro di meno, avrò 100 euro in più per riuscire a faticare di meno ad arrivare alla fine del mese, ma credo che risparmiare proprio zero. Marco, la ringrazio, in bocca al lupo naturalmente per la sua situazione. Probabilmente il 2010 sarà ancora un anno difficile, almeno da quelle che sono tutte le anticipazioni che ogni osservatorio autorevole fa, però speriamo di venire fuori da questo quadro. Salvatore, volevo interpellare te, ti chiedo un commento rispetto a quanto ha detto Marco, che esula un po', come dire, dal rapporto, ma credo che in qualche maniera poi sono temi che si sfiorano, che si toccano inevitabilmente. Certo che una persona come questa fa fatica a guardare con serenità al proprio futuro. Breve, due aspetti commenterei di quello che ha detto Marco. Il primo è quella che lui ha chiamato la latitanza per i lavoratori autonomi. È vero, c'è sicuramente una difficoltà di questo segmento molto ampio della società italiana, è particolarmente ampio in alcune zone, per esempio il nord del paese, c'è questo segmento che ha una scarsa rappresentanza, e questo è vero, e se non se ne occupano un po' i giornali, e mi ha fatto piacere che abbia riconosciuto il ruolo che svolgono il 24 ore e la radio, e non so, da parte della politica non mi pare che questa constituency, come direbbero gli inglesi, dei lavoratori autonomi sia una constituency molto sentita, e questo può avere anche delle conseguenze in termini sociali e politici molto, molto importanti. Il secondo aspetto, lui ha detto, Marco, non voglio welfare. Secondo me il punto è invece proprio questo, che bisogna avere un sistema di welfare che sia flessibile al punto di riuscire ad affrontare i punti di crisi anche di questo tipo di lavoratori. Perché appunto la difficoltà del momento possono capitare ai lavoratori dipendenti, ma possono capitare ai lavoratori autonomi. Anche i lavoratori autonomi devono avere, loro e le loro famiglie, delle coperture da parte del welfare per le situazioni di crisi nelle quali si trovano. Professor, sì. e quindi bisogna modulare il welfare in modo da riuscire a coprire le esigenze di tutti i cittadini. Professor Beltratti, lei ci raccontava prima come mediamente, generalmente negli ultimi anni, insomma, sempre è stato condotto il sondaggio che vi porta all'elaborazione di questo rapporto in estate, mi pare di aver detto, di aver sentito maggio-giugno-giugno-luglio. Questa volta invece l'avete posposto il sondaggio in settembre. Mi chiedo se, chiaramente per questioni pratiche, poi il rapporto non si riesce a pubblicare, deve essere fatto entro questo limite massimo. Si fosse fatto in questo momento, secondo lei la situazione sarebbe apparsa ancora un po' più deteriorata rispetto a quello che è il risultato, che è stato il risultato finale poi presentato ieri a Roma? Non credo. Penso che la situazione, diciamo, tra settembre ed oggi sia rimasta abbastanza stabile da tutti i punti di vista, anzi dal punto di vista di alcuni indicatori congiunturali, perlomeno per l'Europa o nel mondo, abbiamo notato dei segni di ulteriore miglioramento di uscita dalla crisi. Quindi eventualmente si sarebbe potuto intravedere qualche miglioramento, forse, ma ritengo che sarebbero stati molto simili. Che cosa guida la scelta degli investimenti, nell'investimento appunto le famiglie italiane? Resta la sicurezza di non perdere il capitale, per il 56% del campione interpellato è il criterio prioritario, di gran lunga il più importante rispetto al rendimento. E ho letto che la diversificazione del patrimonio è però scarsa, prevale l'obiettivo principale di acquistare la casa, per il 46% del campione è l'investimento più sicuro. Professor Beltratti, questo è esattamente quanto decretava il rapporto alla sua prima stesura nel 1984. Da questo punto di vista grandi variazioni non ce ne sono state questi anni. No, non ce ne sono state. Diciamo, da questo punto di vista la variazione principale è stata sicuramente sul tema dell'obiettivo, in quanto la sicurezza è sempre stato un obiettivo primario di grande interesse per tutti. E tra l'altro io devo dire che comunque perlomeno degli ultimi 10 anni hanno dimostrato che è stato bene avere una forte attenzione al rischio e alla sicurezza, perché effettivamente chi si è avventurato, diciamo, in tempo più rischiosi ha pagato con rendimenti piuttosto bassi e volatilità altissima. Però quello che notiamo, quello che è stato documentato e credo sia interessante, è che il grosso aumento dell'interesse per la sicurezza si è avuto nel 2001-2002, in corrispondenza della prima grande crisi azionaria dell'ultimo decennio. Ed è interessante notare che nel periodo 2003-2006, nonostante i forti miglioramenti dei mercati, l'ulteriore riduzione dei tassi di interesse e così via, che quindi hanno creato un ambiente più stabile, quindi tendenzialmente più favorevole anche all'assunzione di margini di rischio, nonostante tutto la sicurezza è rimasta l'obiettivo principale, non è tornato quell'appetito per il rischio che paradossalmente era un po' più sentito degli italiani alla fine degli anni 90 che adesso. Anche se ritengo che qualche volta questa spasmodica ricerca della sicurezza porti ad un altro tipo di errore, che è quello proprio di allontanarsi dalla diversificazione del proprio risparmio. Io volevo leggere un messaggio di un ascoltatore, che è Maurizio da Parma, che saluto, che dice: io ho deciso di puntare tutti i miei risparmi verso il mio fondo pensione chiuso, ho la speranza che in futuro possano essere ampliati i benefici fiscali. Salvatore Carrubba, allora, un investimento, per quello che riguarda questo ascoltatore, nel fondo pensione, che in realtà non dovrebbe, non, secondo me già è proprio sbagliata l'associazione fondo pensione investimento. Detto questo, lui dice: io ho fatto questo investimento nella speranza che in futuro possano essere ampliati i benefici fiscali. È un approccio che è corretto secondo te? Ma più che sperare nei benefici fiscali, valuterei il fatto quali sono le prospettive della propria situazione previdenziale. Questo mi pare che tra l'altro dal rapporto aumenta, ci sono forti preoccupazioni, forse ne avete già parlato, sul futuro del trattamento previdenziale, sull'entità e quindi sulla sufficienza del reddito negli anni del pensionamento. E quindi la valutazione da fare principalmente è questa qui. Io non credo che si possa fare una valutazione esclusivamente sul beneficio fiscale atteso. Credo che peraltro sia giusto incoraggiare questo tipo di investimento proprio alla luce di queste tendenze che emergono e del fatto che è stato detto in questi anni che bisogna rafforzare molto il pilastro dell'investimento autonomo sulla previdenza. Un altro ascoltatore scrive: non c'è una politica di redistribuzione di capitale, sociale con una busta paga di 1000 euro al mese è impossibile non solo risparmiare ma anche vivere dignitosamente e non si può andare avanti. Così ci scrive Pierpaolo da Roma, che poi fa anche delle considerazioni a proposito dell'evasione, dello scudo, e dice insomma tante situazioni sono anche uno schiaffo a tutti i contribuenti. Io sentirei Mauro da Firenze, che abbiamo fatto aspettare parecchio, e poi suggerimenti per chi è in viaggio, poi continueremo a commentare il rapporto BNL e Einaudi sul risparmio e gli italiani. Mauro da Firenze, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei, Mauro. No, io volevo semplicemente dire che per chi ha ancora il merito e la fortuna di avere un lavoro, per tornare a risparmiare qualcosa bisogna ritornare, secondo me, alle vecchie abitudini italiche, al vecchio buonsenso, comune buonsenso, abbandonando, diciamo così, le lusinghe ingannatrici sembrano quasi delle sirene di omerica memoria, insomma, sì, di tradizione anglosassone, che tra l'altro sono state le responsabili della crisi mondiale che stiamo attraversando. Quindi cosa dice? Evitare di indebitarsi troppo, perché questo è un tema importante che affrontiamo tra poco. Esatto, ecco. Che ha distrutto, ricordiamocelo, soltanto la metà della ricchezza mondiale. Per cui non fare mai il passo più lungo della gamba. E l'unico debito che io posso capire perfettamente e che condivido è il mutuo per l'acquisto della prima casa, ma abbandonare assolutamente le carte revolving per il credito al consumo e tutte queste, ripeto, abitudini importate dal mondo anglosassone. Benissimo, Mauro. Sì, con la nostra cultura e le nostre tradizioni, che non hanno molto a che fare effettivamente. Anche questo ci ha portato ad operare un po', a fare un po' di errori, e però insomma anche questi sono strumenti utili, io ritengo, Mauro, l'abbiamo detto tante volte, se vanno utilizzati ovviamente con un po' di sale in testa, e il problema è stato proprio lì. A Salvadanaio, il rapporto BNL Einaudi sul risparmio. Un ascoltatore dice: ma cosa serve diffondere pessimismo? Ma a noi non sembra, a me sembra questa di quest'anno un'analisi estremamente lucida, che rispecchia esattamente qual è l'atteggiamento delle famiglie alla luce di tutto quello che hanno dovuto subire quest'anno, anche con questa crisi finanziaria che ci ha spaventato e non poco. Un anno fa eravamo veramente nel pieno della tensione, adesso la situazione si è rasserenata per certi punti di vista, per altri un po' meno, perché molte famiglie che all'interno delle quali ci sono dei componenti che hanno perso il posto di lavoro pagano invece lo scotto della crisi in maniera molto pesante, per cui c'è poco da dire che diffondiamo pessimismo. A me sembra di essere molto realisti questa mattina. Allora, ritorno al professor Beltratti, il curatore del rapporto, rispondendo, se vogliamo, alle considerazioni di Mauro da Firenze, perché una larga parte del rapporto BNL Einaudi è dedicato proprio a questo tema che sta generando un dibattito accesissimo nel nostro paese, il tema del debito delle famiglie, che ci sta anche cominciando un po' a stressare, perché non capiamo dove stia la verità, se siamo veramente iper indebitati in questo momento, se ancora siamo lontani dai target anglosassoni che Mauro ricordava. Di fatto negli ultimi 12 mesi le persone che hanno sperimentato una situazione di tensione finanziaria sono aumentate, professor Beltratti, no? Sì, certamente sono aumentate perché hanno tutte queste difficoltà legate al contesto economico, si capisce. E quindi questa è la situazione. Salvatore Carruba, volevi aggiungere qualcosa a questo proposito? Perché veramente le indagini che leggiamo su questo argomento sono le più disparate. Siamo o no tanto indebitati? Siamo molto indebitati ed è una situazione preoccupante, perché siamo indebitati a target a cui non eravamo assolutamente abituati in Italia, perché abbiamo conosciuto degli strumenti di indebitamento di cui non conosciamo le dinamiche. Qual è il problema secondo te centrale rispetto a tale questione? Ma io osserverei due cose. La prima è che la nostra tradizione, come diceva per l'appunto Marco, non va nella direzione di indebitarsi oltre misura o fuori controllo, e quindi io credo che nonostante tutto il comportamento delle famiglie e degli italiani da questo punto di vista sia mediamente più responsabile. Il nostro è stato un paese tradizionalmente molto favorevole al risparmio, e questi dati anche del rapporto BNL Centro Einaudi lo confermano. Secondo aspetto che sottolineerei, non dimentichiamo che il nostro è un paese, non lo dico adesso per vantarlo o per condannarlo, lo esprimo come un dato di fatto, che ha una fortissima componente di lavoro nero e di economia sommersa, e quella sacca lì che, ripeto, non voglio giudicare da un punto di vista etico, ma di cui semplicemente mi limito a prendere atto, è ben difficile che non crei sacche anche di risparmio che forse sfuggono a certi indicatori e a certe misure. Forse il professor Beltratti su questo potrebbe aggiungere qualcosa. Professor Beltratti, visto che l'abbiamo chiamato in causa. Sì, certamente l'economia sommersa rende meno significativi i dati aggregati. Peraltro devo dire che anche sui dati aggregati ufficiali, quindi dell'economia ufficiale, l'Italia e i risparmiatori italiani, gli italiani in generale, hanno un rapporto di debito rispetto al prodotto complessivo molto inferiore a quello di altri paesi internazionali, quindi fortunatamente da questo punto di vista l'Italia è in una situazione molto più robusta che altri. Mm-hmm. Certamente siamo controbilanciati da un grosso debito pubblico, che forse è l'altra faccia del risparmio privato. Però ecco, a livello di singole famiglie l'impressione è che pur nel contesto di una difficoltà, pur nel contesto di una situazione difficile, di aspettative delicate, di aspettative complesse, la situazione però sia molto più sotto controllo in Italia che altrove, questo è sicuramente. Certo, no, ma infatti questo è un aspetto che abbiamo sottolineato tante volte. Sicuramente il problema adesso è posto all'attenzione generale in maniera un po' più enfatizzata rispetto al passato. Perché? Perché negli ultimi anni anche il sistema del credito ha permesso, per esempio, l'acquisto della casa o la possibilità di indebitarsi con prodotti di credito al consumo a persone che magari in anni passati non avrebbe, dico la banca, concesso minimamente udienza, e queste sono le persone che oggi si trovano in difficoltà. Sono aumentate queste di difficoltà nel nostro paese e quindi da questo punto di vista ecco il lavoro che stanno facendo le associazioni dei consumatori di tornare a sollevare il problema, di sollevare continuamente il problema proprio per fare in modo che si mantenga una certa attenzione proprio su queste fasce un po' più deboli. Mauro da Roma, buongiorno. Buongiorno. Rapidissimo, grazie. La puntata intende parlare su come aggregare risparmio. Allora, io che sono un professional consumer ritengo la cosa facilissima. Sì. Spendo meno, risparmio, banalissimo. Posso farlo però, nell'economia dei consumi nella quale viviamo ci siamo affrancati dal bisogno, quindi al punto che invece che cibarci ingrassiamo, invece che abbigliarci vestiamo la moda, quindi siamo in grado di poter risparmiare acquistando meno. E lei pensa un po', Mauro, che qualcuno ci dice invece che per far riprendere l'economia dovremmo cominciare a consumare un po' di più perché sono i consumi che sono fermi. Come mettiamo insieme tutte le cose? A questo volevo arrivare. Se si acquista meno, scende il PIL, decresce l'economia. Allora, però noi ci troviamo di fronte ad una condizione nella quale c'è un eccesso d'offerta sul mercato. Noi siamo affrancati dal bisogno, i produttori sono oberati dall'offerta. Credo che si è prodotto questo squilibrio, per riequilibrare questo squilibrio bisogna redistribuire i redditi in maniera diversa. Lo so, Mauro, infatti è un tema che stanno sollevando anche altri ascoltatori che ci hanno scritto. Io concluderei, visto che mi manca solamente un minuto e mezzo, con un altro ascoltatore, Cristian, per poi lasciare le conclusioni ad Andrea Beltratti e Salvatore Carruba. Cristian, è rapidissimo anche lei, la ringrazio molto. Sì, buongiorno. Allora, premetto, io siamo entrambi che lavoriamo, io e mia moglie, diciamo che siamo tutti e due dipendenti, legati. Abbiamo un bambino, abbiamo acquistato casa. Io le dico, noi riusciamo a mettere via più di 1000 euro al mese. Le spiego come facciamo. Allora, premesso, casa invece che comprarla in città o nella prima cerchia, l'abbiamo acquistata a 20 km dalla città. Abbiamo risparmiato 100.000 euro. Okay? Invece che pagarla 200, abbiamo pagato 100. Abbiamo fatto il mutuo, nell'arco di 7 anni l'abbiamo estinto. Da lì abbiamo cominciato a risparmiare, perché prima mettevamo tutto nel mutuo, nell'abbattimento del mutuo. Per i vestiti e le scarpe, invece che comprare cose cinesi, bim bum bam, tutto quello che viene dall'estero, cerchiamo di comprare made in Italy, ok? Spendendo magari qualcosina di più, però ci dura anche il triplo, perché a me un paio di scarpe mi durano anche 3 anni. E infatti, Cristian, guardi, io devo salutarla, ma abbiamo capito perfettamente la sua ricetta. Andrea Beltratti, concludo con lei, mi pare che sia esattamente quel risparmiatore consapevole che viene descritto dal vostro rapporto, Cristian. Sì, assolutamente. Chiaramente molte volte ci si lamenta di carenze, ci si lamenta del fatto di non soddisfare i bisogni, ma come osservava un ascoltatore appunto qualche minuto fa, di cui non ricordo il nome purtroppo, giustamente a volte i bisogni sono un po' troppo enfatizzati, cioè si tende a desiderare tutto nel modo migliore possibile. Si tratta chiaramente di riuscire a ricostituire una razionalità complessiva in base a cui, sulla base delle risorse disponibili, programmare senza trascurare la qualità e in quel contesto pensare appunto anche al futuro e quindi al risparmio. E infatti sarà molto interessante vedere quale sarà la definizione da dare al risparmiatore nella prossima edizione del rapporto fra un anno, perché abbiamo già detto insomma che per qualcuno il 2010 sarà un anno ancora particolarmente complicato. Salvatore Carruba, non riesco a farti concludere, ma ti saluto con affetto e tutti. E buon Natale naturalmente sia a Salvatore che ad Andrea Beltratti. Noi ci fermiamo, ritorniamo lunedì. Volevo segnalare che parleremo della moratoria sui mutui, perché oggi ABI e Associazione dei Consumatori, se non ho notizie sbagliate, dovrebbero siglare l'accordo con tutte le modalità operative per avere la sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà. A lunedì.